sono le ore 12:51 di giovedì 25 settembre 2025. Sempre più diradate queste registrazioni, me lo perdonerete o magari ne sarete anche contenti. Forse è necessario invece che concentrarsi su qualche manifestazione particolare del quotidiano, fare un po' un piccolo bilancio di questi primi nove mesi di un annus horribilis, il 2025, in cui si è assistito, direi, a un generale ripiegamento di tutte le speranze, i sogni, gli ideali di un mondo migliore a livello individuale e poi anche istituzionale, collettivo. Abbiamo assistito alla crisi di democrazie apparentemente inattaccabili, per esempio gli Stati Uniti, che consideriamo ormai prossimi alla trasformazione in dittature, e abbiamo un po' tutti la sensazione che questa sorta di pentola a pressione, che a un certo punto tutta insieme esplosa, che favorisce poi naturalmente anche la violenza, le guerre che infuriano anche dietro casa nostra, abbiamo forse capito male quali erano gli ingredienti di questa pentola a pressione prima di saltare. Abbiamo forse sopravvalutato le ideologie, nel senso che dopo il crollo del muro abbiamo creduto che non avere più un mondo diviso ideologicamente, e quindi di fatto poi sottraendo alle persone l'idea stessa di poter immaginare in un racconto organizzato e anche istituzionale un mondo migliore, di destra, di sinistra, un mondo capitalista, un mondo socialista, sottraendo alle persone appunto questa prospettiva, questa possibilità, avremmo consolidato l'idea democratica. E invece, guarda caso, la fine di questa dimensione comunitaria, cioè il pensarsi come migliori in mezzo a persone che stanno meglio, ha distrutto dalle basi alcuni punti fermi, no, delle nostre società democratiche, perché oggi sono comunque società, quelle in cui sono rimaste, delle istituzioni democratiche, dove le persone decidono per sé, in una dimensione assolutamente egoistica. Quindi è una democrazia al servizio dell'individuo, o di una maggioranza di individui, ciò che per esempio ha trasformato quella che una volta chiamavamo la militanza, che presupponeva per esempio anche regole comuni, no? Darsi uno statuto, darsi delle linee di maggioranza che poi tutti, anche i dissenzienti per esempio in un partito, in un'associazione, erano comunque portati a sostenere. Ebbene, questa militanza, che richiedeva quindi mozioni, servizi d'ordine, una certa organizzazione di pensiero e d'azione, ecco, è diventata un'altra cosa, l'attivismo. E non parlo solo dell'attivismo performativo, quello più detestabile, quello per farsi selfie alle manifestazioni, per intenderci, o i post massimalisti, in modo da potersi identificare come, poter essere identificati come i più puri degli altri. Non è solo questo il tema. Il problema dell'attivismo in sé è che ciascuno stabilisce le proprie regole per impegnarsi rispetto a una causa. Non c'è, scusate il termine, può sembrare vetusto, non c'è l'inquadramento, non ci sono i quadri, non ci sono le mozioni, non ci sono i congressi, non ci sono le assemblee, non ci sono più nemmeno nei licei occupati le assemblee, è triste dirlo. Si parla adesso per esempio di molti licei occupati in giro per l'Italia, per naturalmente quello che sta succedendo a Gaza, ma non mi pare di vedere una organizzazione militante che poi è quella che ti permetteva, no, di dire io faccio parte, che so, banalmente del fronte della gioventù oppure della FIGC di terza posizione oppure di autonomia operaia, non... eccetera eccetera, no? Poi naturalmente finiva anche male, come sappiamo, si menavano le mani eccetera, ed era quello il sensore che poi in qualche modo sfociava nella violenza politica. Oggi il sensore è forse il livello di disagio generale, no? Prendiamo per esempio le manifestazioni per Gaza, anche la più grande che è stata a Roma è stata, direi, completamente o quasi pacifica, mentre una manifestazione con meno partecipanti come quella di Milano però è stata violenta. Perché? Perché probabilmente c'era una soglia di vicinanza al disagio in quella situazione, in quella città, perché sappiamo che Milano è una città dove ci sono, dove c'è parecchio disagio non espresso, ecco, ha trovato in quella manifestazione una valvola di sfogo. Anche questa però tutt'altro che organizzata. Perché? Perché non c'è dietro una comune idea di come cambiare il mondo. C'è solo la certezza che il mondo non va bene così com'è, ma soprattutto non va bene a noi come individui, non va bene a noi come società, al massimo forse come generazione, ma non c'è l'idea di una società migliore. Questa secondo me è la più grossa debolezza anche di quei fermenti che si osservano oggi, e tra l'altro una debolezza perfettamente forgiata dal sistema dell'informazione nel quale siamo immersi, di cui per esempio i social media sono soltanto una delle manifestazioni, direi anche abbastanza succedanee, non sono la manifestazione che dà il là a questo modo di vedere il mondo, è semplicemente un luogo di ricaduta e di visibilità di questo sclerotismo mentale che ci sta affliggendo tutti quanti, no? Direbbe ancora una volta Mafia De Baggis con Luminol: i social media restituiscono i problemi della società prima ancora di determinarli. E non so se in questo mio rant c'è qualche indizio di come si potrebbero migliorare le cose. Spesso mi si dice di parlare sempre dei problemi e poco delle soluzioni, e io devo dire che penso di aver risposto abbastanza anche in queste registrazioni. Però io credo che se non vediamo i problemi per quello che veramente sono, no, difficilmente potremo anche pensare di elaborare delle soluzioni. Io non penso, per intenderci, che in questa società con tutto quello che non va ci sia un mondo di cattivi che sta distruggendo il mondo, appunto, e un universo di buoni che stanno facendo tutto il possibile per cambiare le cose, ma ancora non ci sono riusciti. No, io penso che ci siano dei problemi anche in mezzo ai cosiddetti buoni, ed è appunto un fortissimo egoismo, individualismo di fondo che pervade anche la società dei buoni. E se non ci libereremo di questo individualismo di fondo che misura ogni minuto della nostra esistenza, del nostro presunto impegno, del nostro presunto attivismo, se non ci liberiamo di questo e se non cominciamo davvero anche ad accettare delle regole dei gruppi, delle regole comuni anche per organizzare la protesta, non credo che potremo davvero cambiare le cose.